Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. E c'era la guerra che ha gettato un ragazzo di 20 anni tra la Spagna e l'Africa. L'ha fatto cadere dal cielo e l'ha tenuto prigioniero per 4 anni nel continente nero. C'era l'Argentina, il miraggio di un nuovo mondo in cui ricominciare, con una moglie e una figlia piccola. Lui ha scritto tutto in prima persona e poi con grande attenzione ha battuto a macchina le sue pagine sulla vecchia Olivetti di mia madre, perché fossero più chiare. Sono Francesca Sartori, ho 35 anni, sono di Treviso e lavoro a Venezia ufficialmente, ma ufficiosamente dal mio salotto. Come si scrive un'autobiografia? Cioè, com'è che si comincia, ci si siede a un tavolino e si comincia a scrivere tutto quello che si è fatto nella propria vita? Non so se esistano dei manuali, o sicuramente esistono dei corsi di scrittura creativa dedicati all'autobiografia, di questo ne sono sicuro. Non so se esiste però un metodo, non so se esista una scansione, se una scaletta di massima per farlo. So che però il nonno di Francesca, che è l'autrice del racconto di oggi, l'ha fatto. Lui aveva una vita che è stata come molte persone che sono nate all'inizio del secolo, all'inizio dello scorso secolo, del 1900. Ha avuto una vita piena di cose, piena di drammi, e piena di soddisfazioni e di gioie. Sono vite che probabilmente adesso è difficile incontrare, ed è per questo che il racconto di Francesca, che era molto più lungo in realtà di come a breve vi racconterò, abbiamo dovuto tagliarlo, però era veramente interessantissimo. Come dicevo ieri, questa fa parte di quei racconti che arrivano al programma e che appartengono alla categoria personaggi, sotto categoria nonni. Ce ne sono moltissimi che arrivano, ed è normale che sia così, perché i genitori o i nonni, soprattutto se sono molto anziani, sono veramente noi indietro nel tempo. È come il seme di quello che noi siamo o diventeremo, o semplicemente è la speranza di quello che vorremmo diventare. Il nonno di Francesca è veramente un grande personaggio, perché è ancora vivo e lei ci ha tenuto a specificarlo, giustamente. È solo che dal suo racconto ancora non si capiva. 349-238-6666, perché oggi vorrei fare un esercizio che ho cominciato a fare sul profilo Facebook del programma e vorrei continuarlo in diretta. Ed è un esercizio semplicissimo. È un'autobiografia in due righe. 140 caratteri sono perfetti. 140 o 144? SMS è 140. 140 caratteri su un SMS sono perfetti per raccontarmi chi siete. Come hanno fatto in centinaia, ma non è così, in un po' di persone sul profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qui. Mi chiamo Laura, ho 37 anni, lavoro e vivo a Novara. Sono impiegata, contabile e insegnante. Amo leggere e scrivere e rincorro la vita. Mi chiamo Francesca, ho 40 anni, vivo a Torino, vendo l'inutile con successo. Amo Napoli, Peppe Vinci e il Napoli. Due righe sono la cifra della mia età, le ruote della bici, le tracce degli sci nella neve, le mani per suonare e le braccia per abbracciare. Mi chiamo Chiara, ho 35 anni, vivo a Palermo, lavoro per i rifugiati, amo andare in bici, cucinare, ballare il tango, sogno di cambiare il mondo. E ancora, mi chiamo Maurizio, ho 45 anni, vivo a Bordighera, il mio nickname è Eno Snob, sono sommelier per passione e snowboarder da 20 anni. E ancora, li leggerei per ore. Scanso doveri come pallottole ed esibisco spille difficilmente equivocabili, come Cousin Jerry. Sbarello per il Milan, per le scollature audaci e per i baustelle. Mi chiamo Lorenzo Sala, vivo male e mangio peggio. 349-238-6666, se avete voglia di scrivere chi siete in due righe. Sono Stefano, 36 anni, mi occupo di video, li guardo, li faccio, li monto. Mi piace muovermi e non sempre di corsa. Ho due bimbi e amo il caffè. A volte mi annoio. A volte tutti credo che si annoiano. Alessandra, 50 anni, ma non ci credo. Due figli tanto belli che ancora non ci credo. E This Must Be The Place è un film stupendo. L'avrà visto ieri, probabilmente. Però fa già parte della sua biografia. Mi chiamano Gabri. Mi chiamano? Sarà un errore? No, mi chiamano Gabris. 30 anni, è la prima volta che lo dico. Una casa davanti e la paura di diventare grande. Sogno nei mesi dispari. Vabbè, qui ognuno chiaramente ci mette del suo. Marco, tardo adolescente, capelli lunghi, troppo complessato. Ascolto gli Smiths, studio lettere, non mi va di cucinare. L'ultimo, Sandro, 37 anni, ma ne dimostro 10 in meno. Disoccupato per scelta mia e altrui. Mi muovo molto, penso il giusto e per dirla alla Noddles, vado a letto presto la sera. Ripeto, 349-238-6666. Si gioca a scrivere la propria autobiografia in un messaggio semplice. Il nome è qualcosa di voi. Non sono stati sufficienti 140 caratteri, è servito un intero racconto per raccontare la vita del nonno di Francesca. mio nonno, classe 1912. Ha sempre amato raccontare la sua storia. Come molte persone della sua età, ha vissuto un secolo incredibile, che noi tuttora fatichiamo a capire davvero. E la sua storia può essere la storia di molti altri nonni. È per questo che un giorno, più di 12 anni fa, mi ha detto che con la sua bella calligrafia inglese aveva deciso di scrivere i suoi ricordi, perché non venissero dimenticati. E proprio così li ha chiamati, I suoi ricordi, non la sua autobiografia. Ha preso una risma di carta bianca e per molto, molto tempo ha riempito i fogli di inchiostro blu, il suo preferito. Mio nonno intanto è vivo, questa è la cosa più importante, per fortuna. E lui è una persona assolutamente solare, positiva, il classico bel soldato, biondo, con gli occhi verde-azzurri, con un sorriso sempre per tutti. Uno di quelli che cani, persone, bambini amano a propria prima vista. Su quelle pagine c'era la sua infanzia in Slovenia, nato sotto l'impero austro-ungarico di Francesco Giuseppe. C'era la sua giovinezza, il suo desiderio apolitico di volare e tutti i suoi sforzi per entrare in aviazione. C'era la guerra, il secondo terribile conflitto, quello che ha gettato un ragazzo di 20 anni tra la Spagna e l'Africa. L'ha fatto cadere dal cielo e l'ha tenuto prigioniero per 4 anni nel continente nero. E poi l'Argentina, il miraggio di un nuovo mondo in cui ricominciare tutto, con una moglie e una figlia piccola, in una strana comunità di gente venuta da ogni dove. E poi c'era il rientro in Italia, a Genova, le bancarotte e il trovarsi ogni volta al punto di partenza, rimboccandosi le maniche e vivendo dignitosamente, accettando le opportunità che la vita metteva davanti. In quelle pagine però non c'è mai stato un briciolo di rancore, di rabbia, di sconforto, perché mio nonno è sempre stata un'anima illuminata, anche oggi che vive più nel suo mondo che nel nostro, e forse è proprio per questo che sorride più di altri. E ha scritto tutto in prima persona. E poi, con grande attenzione, ha battuto a macchina le sue pagine. Lo ha fatto sulla vecchia Olivetti di mia madre, perché fossero più chiare. Alla fine di questo lavoro ha pensato che questo era il suo passato, ma che il presente si chiamava tecnologia. Così, in un altro tempo molto lungo, mi ha dettato la sua storia perché potessi batterla con il computer. Lui ci aveva provato da solo. Scriveva con me qualche mail ai cugini rimasti in Argentina, ma c'è un limite anche per lui. Così sera dopo sera ho letto e riletto quelle pagine, ho corretto bozze, le ho riscritte sullo schermo, rivivendo in quelle righe una vita intera, la mia eredità. Per continuare il viaggio senza dire niente al mio nonno, ho cercato nelle vecchie scatole della loro casa alcune foto da inserire. C'era la foto del suo aereo, un Caproni distrutto, presa da un giornale inglese. C'era mia nonna, bella come Ava Gardner, che lo guardava sorridente in bicicletta. C'era mio nonno, incredibilmente giovane, in uniforme, con il viso da ragazzino e senza baffi. C'era mia madre con i miei occhi e in testa la più grande coccarda che un ricciolo di capelli potesse reggere. C'era la casa in cui è nato, in Slovenia, da dove era cominciato tutto. Le ho scannerizzate, le ho inserite nella narrazione e ho fatto rilegare il libro in alcune copie. E poi, per il suo compleanno, gliel'ho regalato. Era emozionatissimo perché appunto non sapeva che fine avessero fatto i suoi ricordi, sapeva che li dovevo stampare e preparare, ma non sarebbe mai aspettato il libro rilegato con le foto. E poi si è visto soprattutto la sua vita messa su carta, anche se l'aveva fatto lui effettivamente. È stata una cosa veramente emozionante, anche perché appunto gliel'abbiamo data per i suoi 90 anni. Eravamo tutti molto emozionati, la ricerca delle foto, ma soprattutto le didascalie di riferimento, erano stato il frutto della collaborazione con mamma e nonna, e il nonno ovviamente era all'oscuro di tutto. Quando il nonno ha aperto il libro, due lacrime di nostalgia e di stupore sono scivolate dai suoi occhi, e con un sorriso mesto ha detto: «Ho così tanti ricordi in testa e mi sembrano così poche pagine». È stato il regalo più bello che io e mio nonno ci siamo fatti reciprocamente. Ecco, racconto tutto questo perché mio nonno amava la storia e amava raccontarla, per quanto gli fosse possibile, a chiunque. I miei amici hanno sentito spesso le parole del nonno Mario, attraverso la sua voce o attraverso la mia. Oggi mi piace pensare che anche chi non mi conosce possa magari riconoscere un pezzo del proprio passato nei ricordi del mio. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando... Il racconto di Francesca parla della storia di molti nonni che hanno vissuto il secolo scorso. il mio di nonno aveva combattuto in Libia. E anche se ero piccolo, ho memoria di qualche pezzo dei suoi racconti che parlavano di deserto, di armi, di paura. Ricordo giusto qualche episodio, però ho bene in mente la leggerezza e il sorriso con cui mio nonno Antonio mi raccontava di quegli anni, anni di distruzione, lì al fronte. Così come mi ricordo bene anche i racconti di mia nonna, che era rimasta a casa e che scappava nei campi per nascondersi, nei fossi mi pare, perché arrivavano i bombardieri. Lo chiamavano il Pippo. Non so perché, forse per renderlo meno spaventoso, perché alla fine uno che si chiama Pippo non è che può farti così male, no? Ma la cosa che mi è piaciuta molto del racconto di Francesca è quello che lei, con l'aiuto di sua madre e di sua nonna, hanno fatto per il nonno. Cioè, hanno raccolto foto e racconti e hanno rilegato un libro vero e proprio, cioè una biografia tutta personale e tutta privata, composta da persone che lo amavano e che lo stimavano. Ecco, io ho un'ossessione per le biografie. Ho un'ossessione, diciamo in generale, per la storia della vita. Perché la storia della vita non ha l'ordine o la scansione delle storie di fiction. Perché non c'è nessuno che ha deciso cosa fosse più importante o meno importante da raccontare. Nessuno ha pensato che fosse giusto avere prima un episodio grosso, poi magari uno più piccolo che confermava il primo, poi una svolta narrativa e una chiusa. La vita è una storia senza uno scrittore. È un film senza un regista. Nessuno sa come andrà a finire. E di solito l'assassino, se c'è, non è il maggiordomo. Ecco perché scrivere una biografia non è per niente facile. E l'ho capito bene quando ho visto come lavora Stefano D'Andrea. Stefano, oltre a lavorare a questo programma, di mestiere fa proprio quella cosa lì. Cioè, scrive biografie per le persone che gliele chiedono. E per farlo in maniera accurata, lui organizza incontri preliminari di conoscenza, raccoglie tutti i dati, i racconti orali, quelli scritti, fotografie e se serve anche qualche oggetto che possa svelare piccole sfumature che magari sono impercettibili. È un lavoro molto affascinante perché ha a che fare con storie comuni che in realtà di comune in fondo hanno solo il fatto di essere state vissute da qualcuno, perché per il resto non c'è mai niente di scontato. Stefano si annota tutto, a partire dalla trama principale della vita di una persona fino ai dettagli più piccoli, quelli che sembrano insignificanti. Invece danno una colorazione particolare alla storia. E la cosa incredibile che accade quando qualcuno scrive la biografia di qualcun altro sta nel fatto che alla fine la storia che ne esce ha un sapore che nemmeno il protagonista pensava che avesse. Perché qualcuno, dopo averla sentita, l'ha pensata. Cioè, l'ha immaginata in qualche modo. A meno che non si tratti di un'autobiografia, qualsiasi biografia ha un gusto diverso da quello che ha assaporato chi l'ha vissuta. Altrimenti non sarebbe una biografia, sarebbe un curriculum vitae, probabilmente. Mi piace pensare che quello che accade con questo programma sia una cosa simile, che anche se non racconto le biografie, quello che facciamo qui in fondo è un piccolo pezzo di questa cosa qui. Cioè, prendere un episodio solo, unico della vostra vita, leggerlo, magari metterci le mani, aggiungerci una cosa che mi piace o toglierne un'altra, restituisce un pezzo di vita che ha il gusto di qualcosa realmente vissuta, senza però essere una semplice fotografia. Ogni tanto immagino come avrebbe reagito il mio di nonno se mi fossi seduto a un tavolino con lui e avessi raccolto tutte le sue storie per poi farne un piccolo libro. Immagino che sarebbe stato felice, magari stupito, e che probabilmente la sua vita gli sarebbe apparsa diversa da come la immaginava. Perché alla fine immaginare la propria vita è sempre più complicato che viverla. Giuliana, 57 anni, Magliaia, adoro le Dolomiti, ma vivo in Barcavela con il mio secondo marito. I miei due figli mi ignorano, io viaggio, vivo, spero e amo. Davide, 48 anni, 6 figli, una ex moglie, una compagna meravigliosa e un mare di responsabilità e impegni. Corro a prescindere, dormo poco e ho il fuoco dentro. Queste sono alcune delle autobiografie che sono arrivate in due righe al 349-238-6666. C'è però una biografia più lunga, che è un pezzo della quale abbiamo letto oggi in diretta e l'ha scritta insieme a suo nonno Francesca. Pronto Francesca? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene, grazie. Senti, innanzitutto cosa vuol dire che tu lavori in teoria a Venezia e in pratica a dove? Treviso, di dove sei? A Treviso. Treviso. A Treviso perché io lavoro per il comune di Venezia, per il sito internet dell'assessorato alla cultura, però da quando è nato il mio secondo bimbo ho chiesto di telelavorare da casa 4 giorni alla settimana e quindi un giorno vado a Venezia, 4 giorni sono nel mio salotto. E direi che dalla tua voce che ride mi sembra un'ottima soluzione. Sono contentissima, non posso che ringraziare chi me l'ha permesso perché mi ha salvato la vita. Dai, dici 2 robe interessanti che fa l'assessorato alla cultura di Venezia nei prossimi giorni. Dunque, nei prossimi giorni abbiamo l'inizio della stagione di prosa del Teatro Tognolo, per esempio. Che del teatro? Del Teatro Tognolo di Mestre, che è un teatrino comunale, cittadino bellissimo e ha il suo primo spettacolo di tutta la stagione, che è Art, con Alessandro Haber. Molto bello. Apriamo con Haber e poi ti ricordi un'altra cosa? No. Dunque fammi pensare, perché abbiamo adesso tutte le aperture insieme praticamente, abbiamo dei concerti, no, la danza... Ma tu ti occupi dei contenuti o della grafica del sito? Dei contenuti. Solo che sono 3-4 siti insieme e quindi tante volte io preparo i programmi 3-4 mesi prima e quindi vivo sempre un attimino prima e un attimino dopo di quello che succede. Senti, nonno Mario come sta? Nonno Mario, insomma, poverino, proprio questi giorni comincia a stare solo a letto, non alzarsi più ed essere più nel suo mondo che nel nostro. Quanti anni ha esattamente, ce lo ricordo? 96 quest'estate. 96, sti cazzi. Ma scusami, è rimasto da solo? C'è la mia nonna che ha 85 anni che si prende completamente e da sola cura di lui. Lei ne ha 85? 85, sì. Quindi la vecchietta in gamba. Ne ha 11 di meno. Esatto. Ma senti, ma lui però è presente più o meno? Insomma, a momenti. Diciamo che fisicamente sta benissimo, riconosce noi della famiglia, però è da un paio d'anni che tende molto a vagare con la mente verso il passato, alcune volte scambia me, mia figlia, mia madre, fa un gran polverone. Senti, siamo tutti un Mirello Francesca. Senti, lui è stato pilota, giusto? Lui era un armiere nei Caproni. I Caproni, scusa, perché è tipo di aereo da bombardiere. Era un cacciabombardiere, ma che era un aereo della Seconda Guerra Mondiale. Esatto, Seconda Guerra, sì, lui è nato nel 15, quindi è nato durante un conflitto e poi ha combattuto nel secondo. Senti, e poi dopo che cosa ha fatto invece, dopo la guerra? Tornato dall'Argentina, che cosa ha fatto più o meno? Lui praticamente prima ha fatto la guerra in Africa, poi quando è tornato è partito in Argentina perché mio nonno è sloveno e metà della famiglia si era trasferita in Sud America. Quindi lui è bilingue? Sì, lui parla sloveno, italiano, perché parla spagnolo anche, inglese, certo, certo. Tutte le parlava. E poi mia nonna poveretta soffriva di una fortissima asma e non poteva restare a vivere a Buenos Aires e quindi hanno deciso di tornare in Italia negli anni 50 con mia madre che nel frattempo era cresciuta. Immagino, e siete tutti a Treviso adesso? No, i miei nonni stanno a Pordenone, noi siamo invece a Treviso. Senti, tu invece, la tua famiglia invece è composta da? Allora, ci sono io, c'è mio marito Tom e ci sono i miei bimbi, Zoe di 4 anni, domani, e Teodoro di 2 e mezzo. Scusami, Tom... È mio marito, Tommaso, che lo chiamo sempre Tom. Ok, ho per un attimo temuto che si chiamasse veramente Tom sull'onda di, che so, Tom e Jerry probabilmente. No, è peggio, è Tommaso con una M, alla latina. Ah, Tommaso, ce ne sono alcuni a cui danno lì è proprio che i genitori si accaniscono, perché non c'è un vero motivo per cui devi chiamare uno Tommaso invece che Tommaso. Mia suocera è una classicista convinta. Bene. Siamo molto orgogliosi su tuo nonno e sulla classicista convinta. Francesca, ti ringrazio moltissimo per la telefonata e per il tuo racconto. Grazie a te. Saluta nonno Mario, ovviamente. Ciao, grazie mille. Ciao. Voi siete qui. Nella foto che Francesca ci ha mandato non poteva ovviamente mancare nonno Mario. Sono in 3 però nella foto, non sono in 2. C'è Francesca, suo figlio più piccolo, credo, che non ricordo più come si chiama, che ha un bavaglino e deve aver appena mangiato. Lei è in costume da bagno, quindi sarà estate. Ma nonno Mario, ovviamente, è il protagonista di questa foto. È su una sedia a sdraio, di quelle sedie a sdraio che sai che sono del nonno, nel senso che hanno magari 10-15 anni, però non è che la si cambia, perché quella è la sedia del nonno. Lui ha addosso un polo azzurro chiaro, che sembra veramente il colore dei suoi occhi. Ha i capelli bianchi, ha dei baffi bianchi, ha la pelle di cartavelina e il viso sorridente. Andate a vederla questa foto, perché non, insomma, la faccia di Nonno Mario racconta quasi, forse quasi di più del racconto che vi ho, che, di cui vi ho detto poco fa. Il sito è radio24.it, alla pagina di Voi Siete Qui. Lì trovate anche i podcast per scaricare il programma nel caso in cui non riusciste a sentirlo e aveste voglia di ascoltarvelo con calma. Lì e oppure un abbonamento gratuito su iTunes. 349-238-6666. Si parla di biografie, autobiografie in poche righe. Sono nato 382.944 ore fa e da 96.360 faccio l'orologiaio a Cuneo. Amo la fotografia, la musica, la moto e i viaggi. Moglie e bambina stupende. PS, io sono Franz. Marco, 23 anni, riabilitatore psichiatrico senza lavoro. Aiuto i ragazzi a farsi domande. Adoro la cucina e lo sport. Sogno più grande, essere medico e papà. Fulvio, 48 anni, campo di idee. Vivo un po' a Trieste e un po' a Pordenone. Produco assenzio. È legale? Sono Susanna, 38 anni, 3 figli, 3 cani, 2 gatti, un marito, tutti bellissimi. Vivo tra le risaie, aiuto le persone a riscoprire i propri sogni. Barbara, 41 anni, vivo a Pioltello con Pepe. E Pioltello con Pepe è il nome di un paese, o con Pepe sarà un cane? O un gatto? O un marito? Un cane, un gatto o un marito non è male come possibilità. Vivo a Pioltello con Pepe, lavoro per la TV ma ascolto la radio. Passo il tempo sognando ad occhi aperti. E poi questa, 26 anni, anoressica dall'età di 7, bulimica da alcuni mesi. Non studio, non lavoro, non guardo la TV, non vado al cinema, non faccio sport, non più. Che i DCA cronici sono totalizzanti, ma non so cosa voglia dire, però in bocca al lupo. Deborah, 30 anni, lavoro da freelance perché odio la routine. Frequento un corso serale che mi porterà a diventare operatrice shiatsu. Amo andare in bicicletta senza una destinazione precisa. Il mio obiettivo, non smettere mai di imparare. Vabbè, sono tantissime, ve le leggerei tutti, ma li trovate sul profilo Facebook del programma Matteo Caccia, io sono qui. Questa. Mi chiamo Michela, ho 30 anni, vivo a Jesolo Lido. Sono un insegnante precario come molti. Dovrei fare step il martedì e il giovedì. Bello questo, dovrei farlo. Fallo però, Michela, se ti serve. Appassionata di storia moderna e contemporanea. E poi è arrivata, in realtà questo era arrivato come in forma di racconto per il programma. Però, visto che il programma racconta episodi di vita, avevamo pensato che non andasse bene, perché di fatto è un'autobiografia, in questo caso in un paio di pagine, più che in un paio di righe. Però, a parte che oggi era la puntata giusta per tirarla fuori, però il fatto è che Daniele, che ha 38 anni, ha una biografia che sembra quella o di un 88enne oppure di un 38enne che ha vissuto negli anni 20, negli anni 30, per cui gliene sono successe di tutti i colori e ha fatto scelte continuamente diverse. Il titolo del suo racconto si chiamava Ieri lì, oggi qui, domani chissà, che fa un po' schifo come titolo di un racconto, però vi assicuro che la sua vita è molto molto interessante. Sono nato nel 1973, il giorno dello sbarco di Colombo sulle coste del nuovo continente. È il 12 di ottobre. Montessoriano alle elementari, ostico alle regole alle scuole medie malgrado i consigli dei professori, mi iscrivo in un istituto tecnico per geometri. La maturazione avviene per incanto con la lettura di Alberto Moravia e Oscar Wilde. Alle 12.15, tutti i giorni, nella quinta classe di un istituto per geometri, istituisco l'angolo della poesia. Mi iscrivo alla facoltà di lettere, all'Università La Sapienza. Mi accorgo di andare avanti senza troppo impegno o senza troppo merito. Durante 8 mesi vivo a Parigi. Studio nella deludente Sorbonne, ma nella capitale francese preparo anche la tesi, il dadaismo in Italia. Vivo a Saint-Germain-des-Prés, in una chambre de bonne di 9 metri quadri. Scappo da Parigi, disgustato. Mi laureo con 110 lode e frequento un corso di formazione per docenti di italiano. Partecipo alla selezione per il servizio volontario europeo e grazie a questa borsa di studio torno a Parigi. Lavoro come avatar di supporto ai clienti di un gioco online, ambientato nella Venezia dei Dogi. Non potendo più mantenermi e avendo una fidanzata bretone, mi trasferisco a Nantes. Faccio il cameriere, il bigliettaio in un circo di acrobati, batto al computer tesi di laurea di ragazzi iraniani, faccio il muratore in casa della madre di una mia amica e molto altro. Nel frattempo un amico che vive al Cairo mi avverte del concorso per l'abilitazione e l'inserimento nella graduatoria scolastica. Mi scrive lui, a causa della mia riluttanza. Opta per la Sardegna, scelta totalmente arbitraria. Facciamo il concorso ed entriamo in graduatoria. Approfitto di questo incontro per cambiare ancora. Mi trasferisco al Cairo, dall'amico. Insegno presso l'Istituto Salesiano e impartisco lezioni private. Dopo 6 mesi torno a Roma, la mia ragazza a Nantes. Non la vedrò mai più. Tell me why. sapere di una selezione organizzata dall'Istituto Italiano di Madrid. Per 2 anni insegno italiano in Spagna. E poi ho un sogno e un progetto antico: fondare una casa editrice. Lo faccio insieme ad alcuni amici, la chiamiamo Il Catamarano. Mi invento i libri cartolina, racconti spedibili ripiegando all'esterno e affrancando la bandella. Crediamo che questa idea abbia in sé il germe del successo. Il libro cartolina è un modo per scambiare emozioni e idee. Purtroppo però in tempo di email e senza investimenti significativi nel marketing, Il Catamarano piano piano affonda. Mi chiamano per assumere il ruolo in Sardegna. Insegno per 2 anni a Santa Teresa di Gallura, in una scuola media. L'esperienza è pessima. Mi accorgo di non sopportare i ragazzi di quella fascia di età. Mi propongono di passare alle scuole superiori. Accetto senza esitazioni. La nuova sede è l'Istituto Nautica dell'Isola della Maddalena. Scopro il mare e la vela. Dopo 1 anno compro casa nell'entroterra sardo, in una casa in campagna, con orto e vigneto. Adotto 2 cani. Mentre studio la rimetto a posto. Faccio l'idraulico, costruisco una cucina in muratura, rifaccio il bagno, le stanze e avvio un bed and breakfast. A settembre riprendo servizio a scuola. La scuola si chiama Fabrizio De André. Quest'anno mi divertirò, ma il prossimo anno prendo aspettativa non retribuita di 1 anno e vendo casa. Sto pensando seriamente di andare a vivere a Santo Domingo. Mi hanno offerto un posto in una scuola italiana. Sai che c'è? È che quest'estate a un certo punto mi sono guardato i piedi. Ero scalzo, sporco di sabbia, sulle tavole del pavimento del Ciringhito sulla spiaggia. Questo è quello che voglio per i miei piedi. 12 mesi all'anno. Perché rinunciarvi? Se volete sapere qualcosa di più sulla vita di Daniele, più di così intendo dire, ci sono i siti del tipo della sua casa editrice, che è il catamarano.it, ma anche del bed and breakfast, chi se ne frega, buenavida.it, e poi c'è anche un pendolo.info, però non ho capito che cosa sia. 349-238-6666, qua mi dicono: Andrea, la ragazza anoressica ha citato i CCCP, era un pezzo di CCCP, credo, quello non guardo la televisione, eccetera, eccetera. E invece mi chiamo Edoardo, ho 8 anni, se è vero ti amo. Edoardo, mi chiamo Edoardo, ho 8 anni e mi piace viaggiare, mi piace guardare la TV. Edoardo, anche a me, ti giuro, anche a me, farei solo quello, starei in viaggio guardando la TV. Però tornando invece al racconto di nonno Mario, è venuto in mente, me l'ha suggerito Tiziano, io l'avevo visto e ne avevo sentito parlare, un libro che racconta la storia di un uomo che lo scrive in prima persona, quindi è un'autobiografia. È un libro che si chiama Terra Matta, che è pubblicato da Einaudi. È stato pubblicato nel 2007, dopo che per 20 anni era rimasto in un cassetto. Vincenzo Rabito si chiama l'autore, ed è di fatto, era un bracciante siciliano semi-analfabeta che è nato nei primi del Novecento e aveva vissuto quindi entrambe le guerre mondiali. Uno l'aveva fatto come soldato, era stato un ragazzo del 99, era andato a fare, lui dice, andare a fare soldi all'Africa, perché scrive in una maniera che sembra un Gramlò quasi, rincorrendo i sogni dell'imperialismo coloniale. Poi ritorna in Italia, si sposa, attraverso un matrimonio combinato. Insomma, è una vita incredibile. È un libro scritto con un ritmo e con un linguaggio davvero fuori dal normale. È custodito all'Archivio Diaristico Nazionale. Credo che poi Einaudi l'abbia scovato lì e l'abbia pubblicato. Ripeto, si chiama Terra Matta e l'autore è Vincenzo Rabito. È un po' un mattone, non è una roba breve, però non mi ricordo più chi ha detto, ho letto prima una recensione che diceva uno dei grandi capolavori che forse non leggerete mai. E poi un'ultima cosa invece per chi mi scrive: il Pippo non era un bombardiere ma un aereo che lanciava rifornimenti ai partigiani. Non è vero, scusami Max di Vicenza, non è vero. Primo, perché mia nonna mi racconta delle cose che sono vere. Secondo, perché erano degli aerei particolari che durante la Seconda Guerra Mondiale volavano ad altezze più basse rispetto a quelli ai bombardieri normali per sfuggire ai radar, e facevano incursioni soprattutto nel nord Italia. Così, perché dico un sacco di vaccate, ma ogni tanto anche no. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile il programma di oggi. La storia di oggi era la storia di Francesca e del nonno. Quella di domani invece è la storia di Marco e racconta della fobia del tempo che passa. Corro come un matto. Le guardie giurate che pascolano all'interno dell'aeroporto al mio passaggio istintivamente portano la mano alla fondina. Ormai sono l'attrazione dell'area partenze internazionali. Quando passo, la gente fa la ola. I bambini piangono spaventati. Qualcuno mi cronometra.